E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Gentili ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Come già vi dicevamo nel nostro giornale radio, la giornata per i mercati è molto difficile in forza naturalmente di quel che ha detto la Federal Reserve ieri sera e naturalmente anche dei dati di oggi sul deficit commerciale. Per darvi un'idea, il FTSE MIB a Milano, tra l'altro Milano è la borsa peggiore in Europa in questo momento, il FTSE MIB cede il 3,20%. Ed è appunto la borsa peggiore, l'unica che perde sopra il 3%. Dunque, prima delle notizie in breve di questa giornata, ci colleghiamo con la redazione di Radio Core e con Paolo Paronetto, che poi ritroveremo tra poco per il commento conclusivo di borsa. Andremo anche sui singoli titoli, però per avere un quadro generale di giornata. Paolo, c'è stato... Buonasera innanzitutto. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, c'è stato un momento nel quale è iniziato a peggiorare tutto quanto. Sì, a dire la verità, in Europa l'andamento delle borse è stato negativo fin dall'avvio, come ricordavi tu, e proprio gli annunci di ieri sera della Federal Reserve hanno alimentato nuovi timori e ormai rendono sempre più probabile un ritorno in recessione, quantomeno dell'economia americana, o comunque un rallentamento della ripresa. Questo ha alimentato i timori su tutti i mercati e ha spinto al ribasso tutte le borse fin dall'avvio. Poi il trend è ulteriormente peggiorato dopo l'apertura di Wall Street. In questo momento il Dow Jones perde oltre il 2%, il Nasdaq quasi il 3%, e dopo il dato diffuso nel primo pomeriggio sulla bilancia commerciale statunitense, è una bilancia commerciale che ha visto incrementare molto oltre le attese il proprio deficit, a segnalare quindi una perdita di competitività dell'economia americana, dato che a fronte di un aumento delle importazioni sono ulteriormente calate le esportazioni, peggiorando i rapporti della bilancia commerciale degli Stati Uniti nei confronti di tutti i paesi, soprattutto nei confronti della Cina. Bene, grazie per il momento a Paolo Paronetto e Radio Core Il Sole 24 Ore, ti ritroveremo dopo. E questo, il tema dell'economia americana, il tema dell'andamento dei mercati saranno al centro della seconda parte della trasmissione. Ospiteremo un economista ed un gestore per avere proprio un quadro complessivo della situazione. Gli altri temi che toccheremo: Tirrenia, i giudici sono in camera di consiglio, i giudici del tribunale fallimentare per decidere, vedremo di capire quali possono essere le prospettive. Tra l'altro, ieri ve lo abbiamo detto, è stato proclamato uno sciopero per il 30 e il 31 agosto. E poi ci piglieremo 2-3 minuti per parlare dei danni a Mosca. Insomma, vi stiamo parlando nei giornali radio di quel che sta succedendo. C'è anche un impatto economico di questi incendi che stanno colpendo la Russia, ed è un impatto economico che viene già stimato in percentuali importanti. Insomma, si parla di un punto percentuale del PIL, per non parlare naturalmente dell'andamento del prezzo del grano. Prima di tutto, le notizie in breve di questa giornata. Iniziando come sempre dal petrolio, che ha aperto in calo a New York di un punto e mezzo percentuale a $79.08 al barile, e poi è andato ancora più giù sui dati, sulle scorte di barili che sono arrivati dal Dipartimento dell'Energia americano. Scorte di barili che sono scese a circa 3 milioni di barili, mentre gli analisti si attendevano un ribasso di 2 milioni di barili dopo il calo di 2,78 di unità precedente. E però evidentemente il mercato ha comunque ritenuto di penalizzare il petrolio. Per quanto riguarda, e rimaniamo negli Stati Uniti, il deficit commerciale americano a giugno, già ce lo diceva Paolo Paronetto, è balzato a sorpresa del 19% a 49,9 miliardi di dollari, raggiungendo il livello più alto dall'ottobre del 2008. Le stime degli analisti erano molto inferiori. Poi degli squilibri dei deficit americano, non solo quello commerciale ma anche quello di bilancio vero e proprio, il bilancio dello Stato, naturalmente parleremo più avanti. Vi segnalo sempre dall'America che le richieste di mutui nell'ultima settimana sono salite dello 0,6% a 734,3 punti dai 730,2 della settimana precedente. Tra l'altro si diceva della Fed, il comunicato di ieri della Fed è abbastanza chiaro, insomma, dice la Banca Centrale Americana che la ripresa potrebbe essere più modesta di quanto previsto nel breve termine. In realtà sono in parte parole che erano già state dette dal presidente della Fed medesimo, Ben Bernanke. Tra l'altro ha annunciato in una tra le ultime mosse disponibili che ha, che reinvestirà in titoli di Stato i ricavi dei titoli legati ai prestiti immobiliari in suo possesso. E anche questo lo approfondiremo più avanti. Per quanto riguarda la Cina, invece, la produzione industriale cinese a luglio è aumentata del 13,4% rispetto allo scorso anno, mentre l'inflazione sempre a luglio si è attestata al 3,3% rispetto al 2,9% di giugno e alla soglia di attenzione del 3% fissata dal governo di Pechino. I conti delle aziende. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di Chrysler, vi abbiamo parlato di Ford, ebbene dovrebbero arrivare domani quelli di General Motors. Secondo il Wall Street Journal, General Motors si prepara a presentare conti che dovrebbero evidenziare il profitto maggiore da 6 anni a questa parte. Un risultato destinato a segnare una svolta per la casa automobilistica. Questo è quello che scrive il Wall Street Journal. GM, a quanto si apprende, dice l'amministratore delegato di GM, Ed Whitaker, ha ribadito in varie occasioni che GM intende svincolarsi dai legami con il governo il prima possibile, che le sono valsi il soprannome di Government Motors. L'utile di GM non dovrebbe superare quello di Ford, che ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 2,6 miliardi di dollari. E sempre dagli Stati Uniti i conti di Walt Disney, perché Toy Story 3, Alice in Wonderland, ossia Alice nel Paese delle Meraviglie, gli ultimi film hanno fatto bene al colosso cinematografico, che ha chiuso il terzo trimestre fiscale con profitti in rialzo del 40% ad 1,33 miliardi di dollari, 67 centesimi per azione. Giro d'affari aumentato del 16% a 10 miliardi di dollari dagli 8,6 dello stesso periodo di un anno fa. E a proposito d'America, c'è da segnalare l'arrivo di un'azienda italiana, ossia la Lavazza, che sbarca in Nord America e acquista il 7% del capitale ordinario della Green Mountain Coffee Roasters, azienda leader del caffè in cialde in Nord America. L'accordo, annunciato oggi dalle due società, ha un valore di 250 milioni di dollari, con un prezzo per azione pari a prezzo medio ponderato su 60 giorni, scontato del 7,5%. L'investimento potrebbe essere formalizzato nel mese di settembre, dopo l'approvazione prevista dalla normativa antitrust. E poi ci sono i conti di ING, trimestrale, la maggiore società di servizi finanziari olandese, ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in crescita a 1,09 miliardi di euro, dai 71 milioni dell'anno precedente. Il risultato trimestrale supera nettamente le stime degli analisti, che avevano preventivato un utile di 682 milioni di euro. Il gruppo ha anche annunciato che non pagherà alcun dividendo ad interim per la prima metà del 2010. Ci sono le notizie sulle banche italiane che arrivano dall'ABI, qualcosa si accennava poco fa nel giornale radio. Il settore bancario è più sicuro rispetto a quelli di altri paesi di Eurolandia, essendo meno esposto ai rischi dei mercati internazionali, a dirlo è appunto l'ABI nel suo rapporto di previsione AFO, che contiene una stima di mercato delle potenziali perdite attese dai diversi sistemi bancari europei. Ebbene, dice l'ABI, primeggia il sistema bancario italiano con un'incidenza delle perdite sul patrimonio che risulta di oltre 3 volte inferiore a quella media europea. Per quanto riguarda sempre l'Italia, c'è stata un'asta dei bot questa mattina con una richiesta doppia, asta dei bot ad un anno. L'importo offerto e assegnato era pari a 6 miliardi e mezzo, mentre la richiesta è stata appunto di 13 miliardi e qualcosa. Il rendimento medio ponderato si è attestato all'1,374 con una limatura dello 0,025 a ribasso rispetto all'asta precedente. E poi fanno già discutere dei dati che sono stati diffusi oggi dalle agenzie di stampa e che in realtà fanno riferimento ad un rapporto del Ministero dell'Economia, ossia la relazione sulla situazione economica del paese, che in realtà risale a maggio, dal quale emerge che le tariffe nel 2009 sono andate alle stelle, la tariffa dell'acqua è cresciuta del 6%, quella sui rifiuti del 4,5%. Dice il Ministero dell'Economia che l'inflazione è scesa ad un valore tra i più bassi degli ultimi 50 anni, e parliamo sempre del 2009, ma le tariffe hanno viaggiato in controtendenza e già si sollevano le associazioni di consumatori che parlano per il 2010 di una stangata da oltre 800 euro. È stato stilato un patto fiscale anti-evasione tra l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL, un'intesa quinquennale, un'attività di business intelligence nata per rendere ancora più efficace e tempestiva la caccia all'elusione e all'evasione contributiva, si legge nel comunicato. Di fatto, sostanzialmente, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate sovrapporranno, per così dire, incroceranno i dati delle loro banche dati, insomma, per capire un pochino chi evade. La convenzione sarà operativa a settembre grazie alla creazione di un gruppo di supervisori incaricati di redigere le procedure di attuazione di questo interscambio informativo. La Fiat ha fatto sapere che presenterà ricorso nel più breve tempo possibile contro il reintegro dei 3 lavoratori di Melfi. Ha reso noto di aver ricevuto oggi dalla cancelleria la copia del provvedimento. Valuteremo le motivazioni, fa sapere l'azienda. Una decisione che non appare coerente con il quadro istruttorio già emerso, pur nella sommarietà degli accertamenti condotti. Nella convinzione di aver offerto prove incontrovertibili del blocco volontario delle linee di montaggio, che ha determinato un serio pregiudizio per l'azienda, insomma, annuncia Fiat che presenterà ricorso in opposizione alla decisione nel più breve tempo possibile. L'azienda ricorda anche che su questi stessi fatti è stata presentata una denuncia in sede penale. Attaccano i sindacati, in particolare la FIOM, che dice la Fiat continua a buttare benzina sul fuoco. Parla così il segretario regionale della Basilicata, Emanuele De Nicola. E poi ancora il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini: quella sentenza deve essere applicata. Il 23 agosto i lavoratori devono rientrare in fabbrica, questo è il fatto con cui si deve fare i conti. Infine, sempre sul fronte Fiat, ci sono le parole in un'intervista all'ANSA del segretario della UIL, segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, il quale dice: per rilanciare il mezzogiorno ci vogliono 10 Pomigliano e 10 aziende che investono in tutto 7 miliardi di euro. Noi, aggiunto, faremo tutti gli accordi necessari per far sì che la Fiat diventi un grande produttore di auto anche in Italia e che investa i 20 miliardi previsti perché necessari al paese, per l'occupazione e per il mezzogiorno. E siamo al primo tema di questa giornata, ossia Tirrenia. Non prima però, in una giornata come questa, di avervi aggiornato ancora un attimo sui mercati. Le cose sono come ve le abbiamo date in apertura circa un quarto d'ora fa: il FTSE MIB cede il 3,17%, insomma più del 3%, così fa il FTSE All Share, mentre New York lascia sul terreno il 2,23% sul Dow Jones e lo Standard & Poor's il 2,61%, e l'euro che scende nettamente contro il dollaro, 1,28,8 in questo momento. Dunque, che cosa succede sul fronte di Tirrenia? Che i giudici del Tribunale Fallimentare di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio e si dovrà finalmente decidere che cosa fare di questa azienda dopo il fallimento della gara di privatizzazione che vi abbiamo raccontato ampiamente anche la settimana scorsa. Saluto il collega del Sole 24 Ore che sta seguendo la vicenda che si sta tramutando in una vicenda infinita, Raul De Forcade. Buonasera Raul. Buonasera, buonasera. Allora, quali sono le attese? Insomma, innanzitutto dici se è attesa la sentenza per oggi oppure perché insomma si diceva che sarebbe stata una cosa abbastanza rapida. Sì, la cosa dovrebbe essere abbastanza rapida, non è detto che sia per oggi, potrebbe esserlo, ma diciamo potrebbe essere anche domani o dopodomani. Ecco, comunque si attende in tempi appunto, si diceva, brevi, ecco. I giudici potrebbero decidere subito oppure potrebbero riservarsi ancora un giorno o due, ecco, di riflessione. Ecco, questo sul fronte dei tempi e sul fronte delle prospettive di questa decisione si può intuire qualcosa? Beh, qui ci sono appunto due problemi sul tavolo. Uno, la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'azienda che la farebbe rientrare nella legge Marzano, ed è questo il punto focale su cui i giudici sono chiamati, diciamo, a decidere. Però c'è anche un problema che è stato sollevato in particolare da Will Trasporti sulla competenza territoriale del Tribunale, perché si è sollevata l'obiezione che potrebbe non essere Roma, dove attualmente è appunto in sede la Camera di Consiglio, è in atto la Camera di Consiglio, e bensì Napoli, che sarebbe la sede legale della società. Anche se diciamo la tesi sostenuta da Andrea, dai legali in qualche modo della società, è che in effetti la sede reale di Tirrenia sia stata sempre, perlomeno dalla gestione Pecorini in poi, cioè negli ultimi 26 anni, Roma, da dove è stato gestito tutto operativamente. Allora questo indicherebbe in Roma il tribunale, però anche questo è un problema su cui i giudici debbono prendere una decisione. Rischiando di rinviare ancora una vicenda, vi diamo un dato per tutti: si calcola che per ogni biglietto staccato da Tirrenia ci siano, correggimi se sbaglio Raul, 22 euro a carico della collettività. Questo è un dato che è emerso. Che ci sembra abbastanza interessante. Insomma, quindi rischia di rinviarsi ulteriormente la cosa in una sorta di palleggio di competenze tra tribunali. Ora, sì. Vediamo di capire un pochino meglio quali possono essere le prospettive per Tirrenia a questo punto. Allora, lo stato di insolvenza mi sembra quasi assodato, che sia Roma o Napoli. Sì, sì, sì. Alla fine sembra difficile che non possa essere accordato, anche perché il problema reale è che il 30 settembre scadranno le convenzioni di Tirrenia. Queste convenzioni, le convenzioni che gli permettono di avere le sovvenzioni statali ovviamente, queste convenzioni non possono essere rinnovate, anche perché la UE interverrebbe con una procedura di infrazione che è già stata avviata nei confronti dell'Italia, che per ora diciamo è sospesa proprio in virtù del processo di privatizzazione in corso, e quindi difficilmente il governo potrebbe prorogare ulteriormente le già prorogate più volte sovvenzioni. Ecco perché col cadere della privatizzazione della gara, insomma, col cadere della gara, il governo ha dovuto fare ricorso alla legge Marzano, che è l'unica che gli permette in qualche modo di prolungare nuovamente le convenzioni, perché la legge Marzano consentirebbe appunto per alcuni mesi di credo fino a 12 mesi, ecco, prolungare il regime di convenzioni senza incorrere in sanzioni, ecco, dell'Unione Europea. Sì, quindi, certo, sì. No, dico che probabilmente insomma qualcuno inizierà a dire, come già si faceva con Alitalia e già lo vedo dagli SMS, insomma, tutto sommato conveniva farla fallire subito. Come mai non si è presentata questa ipotesi? Beh, non è detto che la legge Marzano porti a un fallimento. Potrebbe fallire nel momento in cui il piano che il commissario straordinario avrà 180 giorni per fare, ma che potrà essere presentato prima anche per alcune cose, potrebbe essere venduto un ramo d'azienda prima proprio in virtù del fatto che si tratta di una società di pubblico interesse, diciamo, di pubblica utilità, Ecco, non è detto che porti al fallimento. Se il piano sarà accettato, ci potrebbero essere varie soluzioni: o una vendita, diciamo, a spezzatino, se vogliamo, degli asset, oppure anche una vendita, che ne so, di Tirrenia separata da Siremar, cosa che per esempio gli armatori hanno, la gran parte degli armatori che hanno partecipato alla gara e poi si sono ritirati, avrebbero voluto, ecco. Cosa che era appunto anche tra le ipotesi iniziali, se non sbaglio, no? Perché la vera ipotesi iniziale del governo era quella di vendere Tirrenia e invece Siremar passarla alla regione Sicilia, che inspiegabilmente, a differenza delle altre regioni coinvolte con società regionali simili alla Siremar, inspiegabilmente la Sicilia non ha voluto prendere Siremar, salvo poi gratis, ecco perché c'è anche questo da dire, certo con i suoi debiti, con le cose, ma a prezzo zero, salvo poi partecipare alla gara per Tirrenia e Siremar insieme, che il governo in qualche modo è stato costretto a fare in questi termini proprio per il rifiuto della Sicilia di acquisire Siremar. C'è una spiegazione a questo? Se si è riuscito a capire il perché? Veramente no, ecco, sarebbe bello questo chiederlo al presidente Lombardo, che non l'ha mai spiegato, il presidente della regione siciliana, che non ha mai spiegato in realtà quale motivo ci sia reale di per cui è stato rifiutato questo. Un'ipotesi che si poteva fare era perché la regione Sicilia aveva appena stretto un accordo per una cifra ingente, credo oltre 80 milioni di euro, con alcuni imprenditori privati che avrebbero fatto lo stesso servizio che faceva Siremar. Allora a quel punto in qualche modo Siremar sarebbe stata svuotata di interesse, ecco, per la regione in quel momento. Però poi allora perché partecipare alla gara? Alla gara per Tirrenia, ecco, certo, naturalmente. Naturalmente. Bene, grazie anche per oggi a Raul De Forcade, Il Sole 24 Ore, per averci aiutato di nuovo a districare la vicenda Tirrenia. Torneremo naturalmente a chiamarti, a disturbarti, a parlarne nel momento nel quale ci fossero decisioni particolari dei giudici. Grazie nel frattempo e buonasera. Grazie a voi. Quadro finale di Milano. Fuzzi MIB in calo del 3,20%, Fuzzi All Share del 3,01%. A chi ci chiede il gufo, diciamo che è prerogativa esclusiva di Sebastiano Barisoni, e quindi quando tornerà forse lo potrete sentire. Io saluto intanto Paolo Paronetto di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. E quindi il momento dell'aggiornamento di borsa. E allora, abbiamo già dato un quadro all'inizio di quel che sta succedendo sui mercati. Dow Jones giù del 2,14%, forse in lievissimo recupero rispetto a poco fa, così come il Nasdaq, Standard & Poor's 500 giù del 2,5%. Borse europee che però se la cavano lievemente meglio di Milano. C'è un motivo per questo, Paolo? No, non c'è nessun motivo particolare al di là della composizione degli indici che ricordiamo spesso. Oggi, come in molte sedute che ricordiamo nei mesi scorsi, visto che il tema generale è stato un timore di frenata dell'economia, hanno perso terreno soprattutto i titoli più ciclici, cioè ad esempio il settore auto, il settore costruzioni e i titoli bancari e finanziari, che sono sempre i più esposti nelle ultime settimane, titoli che pesano molto sull'istino milanese, che quindi è stato peggiore delle altre piazze europee. Allora, considerate che il titolo migliore del listino oggi è Parmalat, che scende di quasi un punto percentuale, a seguire Snam Rete Gas dell'1,12, Prysmian dell'1,13, quindi questo è il quadro. Il titolo peggiore in assoluto, che tra l'altro è il terzo o quarto di tutto il listino, è Azimut, giù del 7,11%, per ovvi motivi, suppongo, Paolo. Sì, qui la questione è sempre quella: titoli finanziari, risparmio gestito, anche gli ultimi dati sull'andamento dei fondi, quindi risparmio gestito in Italia, hanno mostrato un aumento, insomma, dei flussi quasi a quota 2 miliardi negli ultimi mesi per i fondi italiani, e questo unito al calo generalizzato di oggi, che ha portato al ribasso tutti i titoli principali, ha pesato su Azimut, ma anche su tutti i finanziari e sui bancari. A livello europeo il sottoindice delle banche è stato il peggiore, in questo momento perde il 3,4%. Sì, se si considera peraltro che Intesa San Paolo scende del 6,01%, di qui tra l'altro anche il calo pesante di Milano. Intesa San Paolo giù del 6,01%, la Popolare di Milano del 4,68%, Ubibanca del 4,64%, il Banco Popolare del 3,90%, il Monte dei Paschi del 3,66%, Unicredit del 3,46%. Questo mi sembra dare la misura del perché Milano sia scesa di più, insieme al fatto che Fiat è scesa del 4,91% ed è il titolo, il terzo titolo peggiore sul FTSE MIB. Come mai? Sì, Fiat anche questa è stata tra i peggiori della seduta fin dal mattino, un calo che è stato accompagnato dalla flessione di tutto il settore, anche il settore auto è tra i più colpiti a livello europeo, ha perso quasi il 3%, e Fiat quindi oggi è tornata nel trend ribassista che era partito all'inizio della settimana dopo la diffusione dei conti di Chrysler. Ne avevamo parlato più volte nelle scorse sedute, sono conti che in conclusione hanno deluso in gran parte gli investitori, anche se l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha di fatto promesso un aumento dei target con i conti del prossimo trimestre, e quindi il titolo Fiat dal lunedì ha perso terreno. C'era stata una battuta d'arresto in questo trend, quindi un recupero nella seduta di ieri, ma oggi la flessione generalizzata è tornata a colpire anche il titolo Fiat. Questo per quanto riguarda Fiat. Poi sembra in giornate come oggi parlare di singoli titoli è quasi un po' strano. Diciamo che Buzzi Unicem, che c'è un 3,37%, risente ancora dei conti di ieri, naturalmente. Esattamente, Buzzi Unicem ha recuperato parte delle perdite sul finale, era stato per gran parte della seduta tra i peggiori in assoluto, continuano a pesare i conti diffusi ieri, che sono stati in calo su tutte le voci del conto economico. Buzzi inoltre ha annunciato che per il 2010 si aspetta un calo del margine operativo lordo di circa il 15% rispetto al 2009, conti che quindi non hanno aiutato, insieme ai giudizi negativi delle banche d'affari che sono seguiti proprio alla pubblicazione dei conti. Oggi sia Banca Akros che Credit Suisse hanno tagliato l'obiettivo di prezzo sul titolo di Buzzi Unicem, che quindi è stato venduto dagli investitori. E questa è Buzzi Unicem. Tra l'altro da segnalare che più o meno perdeva lo stesso prima che le cose volgessero al peggio nel corso della giornata, quindi forse è l'unico, è uno tra i pochi titoli sui quali c'è stato un tema vero, che nella fattispecie erano appunto i conti. Tra le peggiori troviamo anche ST Microelectronics. Sì, esattamente, in questo caso si tratta di una flessione dovuta a un taglio delle stime sulle vendite di semiconduttori negli Stati Uniti, ha annunciato ieri un annuncio che aveva già penalizzato i titoli della statunitense Intel, che ieri ha perso il 4% a Wall Street, e che hanno pesato sull'intero settore tecnologico. ST in particolare ha perso il 4,86%, scendendo sotto quota 6 euro per azione. Il sottoindice tecnologia europeo è stato anche questo tra i peggiori, ha perso circa il 3%, e quindi anche in questo momento a Wall Street il trend tra l'altro è confermato, perché la stessa Intel è in territorio negativo e perdeva poco fa circa 1,5%, quindi una tendenza comune a tutti i listini europei e internazionali. Allora, ci chiedete di Enel, un calo del 2,31%, Eni del 2,25%, si diceva di qualche titolo che regge, sono quelli considerati difensivi, l'alimentare con Parmalat un calo dello 0,98%, Terna dell'1,18% e così via, Paolo. Esattamente, proprio i titoli più difensivi, alimentari e utilities, sono quelli che hanno limitato i danni. Oltre a quelli che ricordavi tu, c'è anche Snam Rete Gas, che ha perso l'1,12%, e poi A2A, che comunque ha perso quasi il 2%, facendo tuttavia meglio del mercato. In ultima analisi ti chiedo i due titoli opposti sul listino generale, non solo sul FTSE MIB, ossia Servizi Italia, che è stato il titolo migliore, un più 4,42%, un'azienda che opera nel settore sanitario, se non sbaglio, Paolo. Sì, esattamente, dei servizi sanitari, oggi è stato il miglior titolo del listino, ha chiuso appunto con un rialzo di oltre il 4%, qui si tratta di un effetto positivo dei conti annunciati dalla società. La società ha visto nella semestrale un aumento dei ricavi del 6,8% e un utile netto più che raddoppiato a 8,1 milioni, conti che hanno spremiato il titolo, che è stato comprato dagli investitori, mentre, come ricordavi tu, all'altro estremo del listino c'è Olidata, che ha chiuso alla fine con un calo del quasi il 17%. Che tutto sommato ce lo si poteva aspettare. Sì, esattamente, qui si tratta proprio di realizzi e prese di beneficio. Olidata è da giorni al centro della speculazione, ha guadagnato moltissimo nelle ultime sedute, tanto che la società era dovuta intervenire per smentire le voci, dicendo di non essere a conoscenza ad esempio di ipotesi di OPA da parte del primo azionista Acer, e oggi sembra che la speculazione, complice la flessione generale dei listini, si sia placata e gli investitori siano passati a realizzare i guadagni messi a segno nelle ultime sedute. Un'ultima cosa, Paolo, anche se non è propriamente sul mercato, c'è un motivo particolare per il quale l'euro nell'ultima fase ha subito questo calo così pesante? Ne sapete qualcosa là da voi? No, ma le prime reazioni di cui si parla sul mercato tra gli operatori è che al di là i nuovi timori di un rallentamento generale dell'economia hanno fatto prevalere quella che è la reazione di andare su beni rifugio, su investimenti rifugio, quindi il dollaro, più che risentire di queste prospettive, ha beneficiato di questa sua caratteristica storica tra gli investitori di valuta rifugio ed è stata premiata dall'aumento dell'avversione al rischio. E dunque, euro contro dollaro a 1,2889. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cuore il Sole 24 Ore e a Paolo Paronetto. Buonasera Paolo. Grazie a voi e buonasera. Allora, il quadro generale ve l'abbiamo dato, manca veramente poca roba: Luxottica in calo del 2,33, Telecom Italia del 2,36, Finmeccanica del 2,39, Atlantia del 2,47, Campari del 2,6, così come Saipem, Italcementi del 2,7, CIR del 2,75, Autogrill del 2,8, così come Fondiaria, Bulgari di quasi 3 punti, Tenaris del 3,03, così come Generali, Buzzi del 3,37 e insomma poi il resto mi sembra che ve l'abbiamo dato, Saipem del 2,69%. E adesso rimaniamo sul tema dei mercati e sul tema dell'economia americana, perché è esattamente questo che ha spinto oggi al ribasso le borse. Tra l'altro ci scrive già un ascoltatore al 349-238-6666 ed è una domanda che gireremo sicuramente ai nostri ospiti. Dice: ma se pochi giorni fa il governatore della Banca Centrale Europea ha detto che c'è crescita in Europa, insomma si è detto molto confidente, le avete sentite le parole di Trisce, ve le abbiamo fatte sentire, insomma dice: ma allora gli operatori seguono tutte le voci come i semplici risparmiatori e non ci sono voci autorevoli e stabili? Beh, noi speriamo di averle trovate. Saluto l'economista Giacomo Vaciago che ci ha raggiunto al telefono. Buonasera professore. Buonasera a tutti. E saluto anche Alessandro Rosina, gestore internazionale Aletti Gestiel SGR. Buonasera Rosina. Buonasera a lei. Allora, forse questa domanda del nostro ascoltatore la dobbiamo girare direttamente a lei, perché è i gestori che il nostro ascoltatore chiama in causa, insomma. Voglio dire che è comprensibile questo ribasso sulla borsa americana, un calo del 2,09%, ci sono i dati sul deficit commerciale, preoccupazioni di vario tipo, ne abbiamo parlato tra l'altro già ieri, l'idea che per esempio dopo le elezioni di midterm ci possa essere una stretta fiscale, perché gli Stati Uniti hanno anche loro dei problemi di bilancio pubblico, di deficit pubblico oltre che di deficit commerciale. Un po' meno comprensibile è che l'Europa prenda questa via, forse, visto che le prospettive sono lievemente più rose, no? Ma io direi, cioè, non estrapolerei dalla giornata di oggi una tendenza. contestualizzerei il tutto dicendo che nell'ultimo mese, poco più, quindi da fine giugno, i mercati azionari, quindi europei e anche americani, hanno fatto molto bene, quindi parliamo di guadagni di circa il 10%, ancora meglio hanno fatto i paesi emergenti. Sicuramente quello che è venuto fuori dalla seduta della Federal Reserve americana di ieri sera è un quadro economico molto incerto, sicuramente molto più incerto di quanto uno potesse aspettarsi qualche mese fa, e l'incertezza chiaramente anche in giornate così ferragostane o comunque di metà agosto con pochi volumi ha fatto sì che gli investitori riducessero sicuramente le loro posizioni sul mercato. Però ripeto, una tendenza dalla giornata di oggi eviterei di estrapolarla, perché c'è ancora tanto da fare e da vedere. Come diceva lei, Trichet è stato abbastanza ottimista sulle prospettive di recupero dell'economia. Quindi sul fronte dei mercati, secondo lei questo è un fatto più episodico che altro? Allora chiedo al professor Vaciago, sembra che da queste secche economiche non siano proprio gli Stati Uniti che ci possano tirar fuori, no? Ma direi di no, anche perché ci sono differenze strutturali fra i due lati dell'Atlantico. La ripresa tedesca e italiana è industria, è export, è il resto del mondo, ma soprattutto i BRICS, cioè Cina, India e tutti i paesi attorno a loro, Brasile, Sud America, Est Europa e così via. Gli Stati Uniti, come in parte l'Inghilterra, hanno da fare i conti con la domanda interna. Non sono export led, non li sono mai stati. Sono un grande paese dove senza domanda interna, senza i consumi delle famiglie, la crescita non c'è. Non riesco a vedere gli Stati Uniti diventare export led come noi. Allora, il 2010 è l'anno in cui di nuovo divergiamo. Eravamo molto preoccupati per la vicenda greca perché rischiava di impallare l'area euro, ne siamo usciti a fatica, ma ne siamo usciti, e adesso Germania e Italia corrono ovviamente nell'industria, nelle esportazioni, fra l'altro stanno aumentando anche le loro importazioni, cioè esattamente il contrario di ciò che successe a fine 2008, quando viceversa eravamo noi che cadevamo più degli Stati Uniti. Quindi io spero che i mercati capiscano, mentre sulle notizie chiaramente i mercati si muovono assieme. Ieri Bernanke e anche professore, mi scusi, forse anche con un riflesso condizionato, insomma, no, che è quello classico: va giù l'America, vendiamo anche noi. Sì, ma quello è un mondo che non c'è più. Nel mondo globale l'industria, e noi siamo un grande paese industriale insieme, ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma noi siamo un grande paese industriale insieme a Giappone e Germania. E in questo momento non siamo tirati dagli Stati Uniti, che faticano a tirare se stessi. E quindi dobbiamo, Trichet e Bernanke sono tornati diversi, perché guardano alle rispettive case. Allora le nostre borse non devono inseguire Bernanke, però devono inseguire Trichet. Trichet, naturalmente. Rosina, ho un'altra domanda per lei. L'impressione è che soprattutto dall'altra parte dell'oceano si abbia l'idea che la strada è molto stretta, nel senso che la Fed di frecce al suo arco ne ha ormai pochissime, il governo altrettanto, e, insomma, quindi il pessimismo, i rischi di deflazione, insomma, l'impressione è che l'America non sappia guardare a come uscirne, ecco, e i mercati questo lo comprendano benissimo. Assolutamente sì, credo che la reazione che vediamo oggi rispecchi proprio questo, nel senso che una volta si diceva non andare mai contro la Fed, no? La Fed ha sempre le armi tra oltre i tassi di interesse per far sì, per riportare l'economia sul sentiero giusto di crescita. Quello che adesso gli investitori stanno domandandosi è proprio se questo sia ancora vero. Noi abbiamo visto 2 anni fa l'aiuto che la Fed ha dato nel salvataggio delle banche, l'emissione di liquidità, il fatto che abbia usato il proprio bilancio per comprare titoli legati ai mutui per sostenerne la liquidità. In questo momento di incertezza gli investitori si chiedono se in caso di necessità, in caso di ulteriore diciamo, difficoltà dell'economia, la Fed abbia ancora delle armi da utilizzare. Beh, è proprio pochino, cioè se quello che abbiamo visto ieri è proprio pochino, anche perché i tassi stanno a zero, quindi... Certo, però ricordiamo anche che la Fed ha usato altri strumenti, tra i quali appunto quello di andare direttamente sul mercato, sostenere il mercato comprando essa stessa i titoli che magari il settore privato in quel momento non era in grado, perché non voleva, comunque non aveva le risorse per poterli acquistare. Quindi ancora, come ho detto prima, non estrapolerei un trend negativo da questa giornata o magari anche dai prossimi giorni, perché chiaramente la situazione poi dipenderà anche molto da quello che accadrà dopo questo terzo trimestre, che è un trimestre sempre un pochettino più debole rispetto agli altri. Poi abbiamo il quarto, quindi la stagione natalizia. Tra l'altro Rosina, visto che lei parla di trimestre, le trimestrali non sono state pessime, anzi, complessivamente no? Le cose sono, mi sembra... Assolutamente sì, le trimestrali del secondo trimestre in America sono state molto molto buone, siamo a livelli, diciamo, record, quindi anche per questo è normale vedere prese di beneficio dopo appunto l'ultimo mese in cui i mercati hanno dato dei rendimenti molto buoni. Intanto la ringrazio, Alessandro Rosina, gestore internazionale di Aletti Gestiel SGR, per essere stato con noi, e la saluto, buonasera. Merci. E rimaniamo col professor Vaciago. Allora, professore, vorrei rigirare una domanda che, insomma, già sono cose che già in parte si dicevano con Rosina, e mi ricollegherei a quello che ha detto lei, insomma, no? Gli Stati Uniti sono storicamente un'economia trainata dai consumi, e se non consuma un'economia con i tassi a zero, ripeto, la strada è stretta. Lei quale strada vede per... Allora, il problema, e mi spiace che il guaio ce l'ha in mano un presidente che si era illuso che bastasse parlare perché l'economia gli desse retta. Allora, è chiaro che il risanamento finanziario dell'economia americana, citavate poco fa i conti delle aziende, è avvenuto con la brutalità con cui hanno cacciato la manodopera. Se guardiamo l'Europa e l'America, è impressionante il contrasto. Loro hanno cacciato la manodopera dalle fabbriche e dagli uffici, il forte aumento della disoccupazione adesso deprime i consumi, perché il reddito atteso del disoccupato è zero o poco più. E quindi come fai ad andare in banca a prendere anche gratis dei soldi se non hai lavoro? Cioè, qui l'attuale rischio di double dip, ricordiamoci che era per gli Stati Uniti la previsione di Nouriel Roubini di settembre a Villa d'Este l'anno scorso, il double dip è la gente che, non avendo lavoro, non consuma, e se non consuma l'economia non riparte e il lavoro non aumenta. Questo circolo vizioso non lo abbatte la politica monetaria, perché se io non ho stipendio, neanche se mi regalano i soldi faccio debiti. Quindi abbiamo di nuovo bisogno, spiace dirlo perché avevamo detto che ne avevamo già fatto troppo di deficit pubblico, abbiamo di nuovo bisogno degli strumenti classici che sono scavarbuche, Keynes brutale, proprio quello peggiore, che quando l'economia va male scavarbuche è meglio che niente, perché paghi stipendi e la gente li va a spendere. E quindi stimoli i consumi. Bene. E quindi Bernanke lo sa probabilmente, ma non osa dirlo, perché il debito che ha già fatto gli Stati Uniti è massiccio, e si parlava di tirare i remi in barca, e invece no, non c'è speranza, insomma. Io non vedo uscire da questa debolezza. Poi quando l'occupazione torna ad aumentare e quindi la prospettiva di trovare lavoro torna positiva, la gente i soldi va in banca a prendere. Certo. In questo momento nessuno disoccupato va in banca. Grazie dunque al professor Giacomo Vaciago, docente di economia all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Siamo quasi in chiusura, abbiamo un paio di minuti per l'ultimo argomento di giornata, ossia i conti di questa Russia devastata dagli incendi. I conti pesanti anche qua, ci spiace che oggi parliamo quasi solo di cattive notizie. Comunque, Antonella Scott del Sole 24 Ore, inviata al Sole del Sole 24 Ore a Mosca, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che conti ci sono su questa emergenza che si sta tramutando anche in emergenza economica? Sì, sono appunto conti brutti perché abbiamo i primi dati che registrano l'inflazione nel prezzo del grano e nel prezzo del pane, esattamente quello che era, quella che era la preoccupazione centrale di Putin, la ragione per cui è stato deciso un blocco alle esportazioni era di non infiammare i prezzi del pane e di assicurare al paese che il grano non mancherà. Dobbiamo tener conto che la Russia è un paese in cui il prezzo del pane è un tema molto sensibile dal punto di vista sociale, per molti anche una piccola variazione di centesimi è importante. E invece nell'ultima settimana il pane è cresciuto già dello 0,3-0,4%. Questo potrebbe spingere il governo a estendere oltre il 31 dicembre il blocco alle esportazioni che già è stato annunciato da Putin. Putin è stato molto chiaro, ha detto se qualcuno aspetta il 31 dicembre aspetterà invano. La decisione sull'estensione verrà solo dopo che i dati sul raccolto saranno chiari. E purtroppo, visto che la siccità continua, è ancora impossibile fare una previsione sul raccolto, dato che sta andando a rischio anche la stagione della semina che è a fine agosto. Questo sul fronte del grano, molto brevemente le stime sui danni a quanto ammontano al momento, Antonella? Beh, quello che gli economisti ancora sottolineando appunto che sono stime assolutamente preliminari, parlano di un punto percentuale del PIL russo perso a causa dell'ondata di caldo, quindi 15 miliardi di dollari. Questo però davvero non tiene conto di quelle che saranno le ricadute che man mano si avvertano. Ci sono molte fabbriche che stanno chiudendo per non mettere a rischio la salute dei propri dipendenti come Artovaz, Atogliati, oppure tutte le ricadute sul fronte dei servizi. Immaginate a Mosca, una città che è stata completamente come chiusa con la gente che non riusciva a uscire di casa, quindi anche le banche, i ristoranti, l'impatto sul turismo. Tutto questo purtroppo si capirà soltanto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E vedremo dunque, grazie nel frattempo ad Antonella Scott, inviata del Sole 24 Ore a Mosca, che ritroveremo naturalmente con le cronache più di cronaca, consentiteci di dirlo, nei nostri giornali radio e poi appunto sulle colonne del quotidiano. Grazie Antonella e buonasera. Grazie a voi. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Valeria Bernardi in regia, Mauro Del Corno in redazione, a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.